Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata. Il decreto legge sull'occupazione varato la scorsa settimana dal governo mette in campo risorse per 1,5 miliardi di euro e punta in modo particolare sugli incentivi alle nuove assunzioni. Fra questi ha fatto molto discutere il bonus che permette ai datori di lavoro di ottenere un taglio totale dei contributi se assumono con un contratto stabile giovani fra i 18 e i 29 anni, che siano disoccupati da almeno 6 mesi o senza diploma superiore o professionale e che vivano da soli con una o più persone a carico. È sufficiente uno di questi 3 requisiti per ottenere l'agevolazione. Salva Danaio ne parla in questo nuovo martedì del lavoro, mettendo insieme anche il tema degli incentivi per i lavoratori che si trovano in regime ASPI, l'assicurazione sociale appunto che ha preso il posto, come ricorderete, da gennaio della vecchia indennità appunto di disoccupazione. Il nostro programma stamattina parte necessariamente dai titoli dei giornali di oggi, che enfatizzano i dati di ieri dall'Istat. La disoccupazione in Italia è al suo nuovo record storico, al 12,2%. Ormai in Italia il numero delle persone in cerca di un posto supera largamente i 3 milioni, con quasi 500.000 in più totalizzato nel giro di un solo anno. C'è un microscopico calo della disoccupazione giovanile, cioè quella che si riferisce ai giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni, una fascia che parzialmente interessa anche il nostro programma di oggi. Il tasso appunto per questa fascia è al 38,5%, che è comunque preoccupante, elevatissimo. Allora noi oggi riprendiamo i nostri martedì del lavoro lasciando la riforma Fornero, che abbiamo spezzettato in tante puntate, e invece riprendiamo i punti del pacchetto Giovannini, che ricordo tra l'altro per gli appassionati anche di riferimenti legislativi è il decreto lavoro numero 76 di quest'anno. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Se volete intervenire in diretta avete anche l'alternativa degli sms al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it invece ci potete scrivere. Potete anche scriverci su Facebook al nostro profilo salvadanaio-radio24 e su Twitter @salvadanaio24. Prima di tutto questo, uno sguardo ai mercati finanziari. Dopo i rialzi di ieri, oggi la borsa ci ripensa di nuovo. Ci sono dei cali su tutti i listini del vecchio continente. Adesso vedo, rispetto già all'aggiornamento che abbiamo fatto nel giornale radio, un nuovo miglioramento. Milano ha addirittura sfiorato il punto percentuale di perdita, adesso è a -0,60%, -0,4% a Parigi, -0,8% a Francoforte, Londra perde lo 0,53%. Abbiamo avuto poco fa un dato economico molto importante in area OCSE, l'inflazione si attesta all'1,5% annuo a maggio, e siccome monitoriamo con grande attenzione l'andamento dell'inflazione, perché è un parametro tenuto in considerazione dalla Banca Centrale Europea per tenere i suoi tassi così bassi, è chiaro che su questi livelli auspichiamo che la BCE li tenga su questi livelli ancora a lungo, almeno questo lo spera l'impresa e l'economia reale. Andiamo a Piazza Affari a vedere i migliori e peggiori titoli che stamattina stanno appunto caratterizzando la seduta. Saipem è più 3%, continua la sua rimonta dopo settimane molto difficili. Salvatore Ferragamo più 0,90%, Banco Popolare più 0,55%, Campari più 0,36%, UbiBanca più 0,29%. In discesa invece abbiamo la Popolare dell'Emilia Romagna che perde 3 punti, 2 punti e mezzo di ribasso per Diasorin, Finmeccanica meno 2,28%, dopo i dati sulle matricolazioni auto di ieri sera, Fiat oggi segna meno 2 punti percentuali. Lo spread fra BTP e Bund stamattina si è svegliato di buon umore ed è sceso sotto i 270 punti base. Il tema di oggi, il lavoro, gli incentivi per gli under 30. Prima di sentire la nostra scheda, direi che è il caso anche di presentare gli ospiti che ci spiegheranno tutte queste novità. In studio con noi a Milano l'avvocato Francesco Rotondi, partner dello studio Lab Law, specializzato in diritto del lavoro. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. E bentornato anche ad Alessandro Rotaporta, nostro consulente del lavoro ed esperto sulle tematiche del lavoro per Il Sole 24 Ore. Bentornato anche a lei. Buongiorno, grazie dell'invito. Sentiamo la nostra scheda. Noi siamo i giovani, più giovani siamo. Il pacchetto lavoro varato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri ha fatto discutere la rete. che ha visto sollevarsi le proteste e il sarcasmo di chi accusa il governo di riservare gli aiuti ai giovani che non hanno studiato e che sarebbero perciò meno meritevoli. Tra questi, il caso del padre del pizzaiolo, che chiede agli insegnanti di bocciare il figlio alla maturità per permettergli di essere assunto a tempo indeterminato grazie agli incentivi. Una bufala portata alla ribalta dal buongiorno dell'ignaro Massimo Gramellini e poi smentita rivelandosi come la provocazione di un'agenzia di marketing. Il dito è puntato contro uno dei due incentivi che sono stati proposti e che insieme mettono in campo risorse per 1,5 miliardi di euro. È stato previsto infatti per chi assume in pianta stabile un giovane tra i 18 e i 29 anni il taglio totale dei contributi, a patto che il suddetto giovane sia disoccupato da almeno 6 mesi, non abbia conseguito il diploma superiore o professionale, viva da solo con una o più persone a carico. Alla congiunzione O va prestata particolare attenzione. Basta infatti che si verifichi una sola di queste condizioni. E non serve che la persona interessata le viva tutte contemporaneamente. Altro aspetto questo che aveva suscitato inizialmente un po' di amara ironia. Non è poi così improbabile, fa notare qualcuno, che un giovane italiano possa trovarsi a vivere contemporaneamente situazioni di questo tipo. E non solo nelle regioni del sud, alle quali non a caso vengono diretti la maggior parte di questi aiuti. 500 milioni sui 794 stanziati in totale. E in ogni caso, comunque la si pensi sull'operato del governo, sono sufficienti gli ultimi dati sulla disoccupazione diffusi ieri dall'Istat per rendersi conto che gli under 30 in Italia non hanno molte ragioni per sorridere. Mi vuoi dir perché? 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, discutere con noi del tema di questa mattina, ma soprattutto farci delle domande qualora siate degli imprenditori e vogliate appunto approfittare di questi incentivi. E magari ci chiama anche qualche papà o mamma preoccupati, come è già successo in trasmissioni precedenti, che così cercano di capire se il proprio figlio, non scolarizzato a sufficienza e disoccupato appunto da un po', può evidentemente o può eventualmente essere assunto da qualche azienda utilizzando questi incentivi. Voglio fare subito una domanda all'avvocato Francesco Rotondi, che si parlava nella nostra scheda dell'ironia che ha accompagnato in certi casi appunto queste misure. Noi riteniamo che siano importanti naturalmente, ma più di 1,5 miliardi non si poteva avere a disposizione, e sono sicuramente misure che sono state prese così anche un po' per accontentare gli organismi di Bruxelles. Dovevamo evidentemente anche aiutare questa fascia di popolazione in condizioni particolarmente disagiate. Lei che cosa ne pensa di tutto questo pacchetto? Poi ci focalizzeremo appunto sui temi che ho indicati, ma mi piace sentire anche un po' la considerazione di chi tutti i giorni si confronta con le aziende che ha le prese con queste problematiche. Ma credo che effettivamente si sia centrato un po' il tema, nel senso che avevamo delle indicazioni da Bruxelles. Dovevamo cercare di, oltre a creare una pletora di contratti e tipologie che in questi anni ci ha accompagnato come produzione legislativa, anche dare un sostegno, un contributo alle imprese che andavano poi ad assumere questi giovani. Questo è stato fatto e questo è indubitabile. Dal punto di vista invece del mio giudizio sul decreto, il mio giudizio è direi abbastanza critico, perché al di là delle previsioni che noi abbiamo all'interno di questa produzione normativa, bisogna vedere se poi abbiamo centrato quelle che sono però le esigenze delle imprese. In questo momento noi ci siamo focalizzati su quella che è l'esigenza di riportare i giovani nel mondo del lavoro. Dobbiamo verificare poi se il metodo attraverso il quale noi pensiamo che questi possano diventare interessanti per l'impresa, che poi il luogo deputato, abbiamo centrato. Sotto questo profilo io ho dei fortissimi dubbi. Tradotto in termini ancora più semplici, bisogna capire se le imprese sono interessate ad assumere giovani, così giovani, mi viene da dire appunto, con una bassa scolarizzazione e che sono inoccupati da un po' di tempo, per cui l'azienda potrebbe dire: io va bene, sì, posso anche, grazie governo che mi hai dato questi incentivi, ma perché devo puntare nel lunghissimo termine su queste persone, perché poi il contratto di assunzione è a tempo indeterminato. Esatto, io credo che sia proprio questo. O banalizziamo il tema e il problema del lavoro e quindi riteniamo che le imprese fino ad oggi non abbiano dato spazio ai giovani solo perché aspettavano questo beneficio, piccolo o grande che esso sia, o forse io credo che il tema dell'ingresso nel mondo del lavoro sia un tema un po' più complicato, dove bisogna verificare le competenze, verificare la fotografia del lavoratore, perché noi continuiamo a chiamarli giovani, ma in realtà diventano dei lavoratori. Se pensiamo che, come si è detto, adesso le imprese non hanno più nessun alibi per andare a sostenere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, solo perché per 12 o 18 mesi avranno questo tipo di, come chiamiamolo, incentivo all'assunzione, credo che si sia tralasciato comunque qualcosa. Non è che il decreto non avrà una sua valenza per mille ragioni, ma credo che questo non sia la soluzione per quel 4 milioni e 300 rotti giovani che sono la platea di questa normativa. E intanto ci sono anche degli ascoltatori che magari ascolteremo tra poco, c'è chi solleva proprio la questione che lei tentava di centrare da un punto di vista diverso. I giovani dai 15 ai 18 anni sarebbe meglio essere che siano ancora a scuola, naturalmente, però dobbiamo prendere coscienza del fatto che c'è invece una fascia sociale di persone estremamente giovani che hanno deciso di non continuare la scuola, e queste in qualche maniera nel mondo del lavoro evidentemente devono essere inserite. Alessandro Rotaporta, un altro aspetto che è stato sollevato alla luce appunto del pacchetto Giovannini è che magari questi incentivi adesso rischiano di essere intercettati da quelle imprese che comunque avrebbero assunto a tempo indeterminato magari già appunto dei lavoratori che erano stati impiegati a termine e che adesso avrebbero potuto essere stabilizzati. C'è davvero questo rischio? Ma guardi, l'avvocato Rotondi ha centrato quelle che sono le criticità di queste misure. Io vedo, oltre questo rischio, sì, sicuramente ci può essere, ma vedo anche altre problematiche, magari le sintetizzo un attimo. Volentieri, sì. Allora, la prima sicuramente è un discorso, manca nel sistema normativo nostro un'organicità del sistema degli incentivi sulle assunzioni, quindi abbiamo una cozzaglia di disposizioni che poi non sono raccordate tra loro, con il rischio ancora di creare una concorrenza tra gli incentivi, perché se noi guardiamo questa fascia di età a cui si rivolge l'incentivo del decreto Letta, è la stessa dell'apprendistato. L'apprendistato ha dei periodi di agevolazione più lunga, quindi un contratto di carattere formativo che peraltro è nell'obiettivo ormai degli ultimi governi di rilanciare, ma non si sta riuscendo. Ecco, quindi si crea una competizione tra incentivi che disorienta l'impresa, questo non è positivo. Secondo aspetto, la spendibilità, cioè molte volte vengono emanati delle agevolazioni, dei bonus, che però non sono spendibili, perché anche questo bonus, questa decontribuzione necessita di una serie di passaggi di riprogrammazione e poi può essere presa, se non sbaglio, dalle imprese attraverso, come dire, una compensazione fiscale. No, questa è uno sgravio che interviene mensilmente sulla contribuzione che l'azienda va a versare all'INPS. Quindi il meccanismo in sé è molto facile, perché nel momento in cui l'azienda presenta l'istanza e viene autorizzata, mese per mese si può andare a scalare questo massimo di 650 euro. Quindi un pochino di liquidità in tasca l'azienda se la ritrova. Ma diciamo il metodo è buono, però è quando è che l'azienda potrà effettivamente mettere in piedi queste assunzioni, perché oggi non è possibile, perché finché non ci sarà una riprogrammazione dei fondi dove dovranno intervenire il gruppo di azione coesione, dove dovrà intervenire il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Economia, le regioni coinvolte, l'INPS successivamente, eventualmente il parere della Commissione Europea, cioè capiamo che questa serie di passaggi io mi auguro che avvenga velocemente, perché sennò non è spendibile, quindi l'azienda che oggi voglia realizzare questa condotta non ha l'agevolazione. Quindi diciamo che la norma dice chiaramente quando sono agevolati gli inserimenti che vengono effettuati entro fino al 30 giugno del 2015, però tutto sommato appunto fino a quando non ci sarà questa riprogrammazione dei fondi strutturali europei 2007-2013, tutti i requisiti appunto, tutte le condizioni che ci diceva Alessandro Rotaporta, di fatto un'azienda non potrà procedere ad un'assunzione per utilizzare appunto questi incentivi e quindi di questi ragazzi. L'ho sintetizzata un po' brutalmente, però la situazione è questa. Poi andremo anche appunto ai beneficiari di ASPI, in sintesi la diciamo così, parleremo appunto anche di quel bonus che vuole incentivare l'assunzione di lavoratori che usufruiscono dell'assicurazione sociale per l'impiego, che è quell'ammortizzatore che da gennaio 2013 ha preso il posto dell'indennità di disoccupazione. Adesso però anche qualche domanda subito di qualche ascoltatore, così entriamo immediatamente nel vivo appunto di questo, del tema di stamattina. Giuseppe dalla provincia di Massa Carrara, lo saluto, buongiorno all'800240024, ci dica. Buongiorno, ascolti, io vi ascolto sempre, avrei sempre tante cose da dire, però riesco difficilmente a prendere la linea. Beh, io adesso volevo sollevare un'obiezione su questo decreto di cui si parla, del diciamo che avrebbe dato o darebbe la possibilità ai giovani, diciamo, senza diciamo titolo di studio o impreparati culturalmente, di trovarsi un posto di lavoro. Io vorrei ribaltare la situazione, vorrei dire che spesso si fanno dei concorsi per operaio, nello specifico poi dirò perché cosa, dove nel bando di concorso si dice il posto da operaio, faccio per dire, nel turbino, diploma punti 3, un titolo di studio scuola media punti 1, laurea punti 5. Cosa succede? Succede che quello che non può fare altro che il netturbino perché non ha studiato si vede sorpassato dal laureato. E io dico, te laureato non è che ti devo dire non venire a lavorare, però te vieni a lavorare e siccome questo concorso è per netturbini, non serve nessun titolo di studio, i tuoi titoli di studio non contano niente. Questo è anche un caso di come è gestito, per esempio. E Giuseppe, magari ci può essere un laureato che vive in una zona che non ha altre prospettive, magari non si può allontanare perché ha una famiglia da assistere, i genitori, sai, ci possono essere tante situazioni, magari anche il laureato si accontenta, però non so quanti laureati partecipino oggi ai concorsi per netturbini, forse molti. Perché ha fatto riferimento proprio a questa professione, Giuseppe? Mio figlio ha fatto un concorso nell'esercito, no? Per militare di truppa, e tutto quanto è andato molto bene, poi si è visto sorpassare da tutti quelli che avevano la laurea, no? Che contava un certo numero. Ora il militare di truppa di solito va a fare la gavetta, a pulire i bagni, a fare tutte queste cose qui, no? Per cui la laurea non conta niente. Allora io ti dico, se vuoi fare il militare di truppa, io te lo faccio fare, ma il punteggio te concorri diciamo, alla pari degli altri, perché poi questi laureati cosa fanno? Dopo 12 mesi che percepiscono 800 euro al mese se ne vanno e lasciano tutti lì, come si dice. E vabbè, poi magari sono le graduatorie a cui si pescano. Vabbè. Giuseppe, grazie per la sua testimonianza. Insomma, è un tema che un po' sfiora la riflessione che abbiamo fatto questa mattina. Vede che c'è comunque sensibilità sulla scarsa. C'è chi ha una istruzione un po' più contenuta e cerca posto di lavoro, quindi diciamo guardiamola in termini positivi la norma di cui parliamo questa mattina, si cerca di mettere nel mercato del lavoro anche queste persone. Ma non ci vedo nulla di negativo in questo, però trovo oltremodo straordinario che si arrivi a colpevolizzare la cultura, cioè magari i laureati di oggi come di un tempo potessero trovare dei lavori cosiddetto poco qualificati. Il lavoro è lavoro. Certo. Il lavoro è questo il concetto che manca. Il lavoro è lavoro, che lo si faccia da laureato o non da laureato non importa. Il discorso invece che sta dietro a questa riflessione dell'ascoltatore è molto interessante, perché diventa un problema non del lavoro ma sociale. Cioè il concetto dell'abbandono di un percorso culturale che non ha nulla a che vedere col lavoro finale. Cioè il percorso di chi deve crearsi un bagaglio culturale non necessariamente deve essere collegato a quello che è lo sbocco lavorativo finale, tranne per delle professioni specifiche, il medico, che ne so, l'avvocato, il commercialista, questo è un altro discorso. Ma il fatto che io debba fare per forza nel turbino rimanendo ignorante, io lo trovo fuori contesto, fuori tempo. L'assunzione dei ragazzi fino a 29 anni è uguale all'apprendistato, con l'unica cosa che con l'apprendistato li puoi tenere 36 mesi, ci scrive Claudio da Torino, e se non sono in grado o non hanno voglia li lasci a casa. Con questa nuova legge non potrai più licenziarli a meno di costose penalità, una legge inutile. Ha detto tutto correttamente l'ascoltatore avvocato Rotondi? Ma direi proprio di no, nel senso che siamo al contrario, diciamo che le riforme fino ad oggi pensate sull'apprendistato tendevano proprio a ottenere un concetto di normale prosecuzione del rapporto d'apprendistato poi a tempo indeterminato, subordinato, ordinario. con questa, in parte con questa riforma, si tende a andare a limare il concetto della necessaria trasformazione poi. Allora, ritorniamo un attimo a come funzioneranno questi incentivi. Fatti tutti i commenti che volevamo fare, adesso andiamo nel concreto e cerchiamo di capire, qualora ci fossero delle aziende interessate ad assumere secondo questi criteri, cosa devono fare. Alessandro Rottaporta, allora, i beneficiari, lo abbiamo già detto, sono le imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani fra i 18 e i 29 anni, senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, e questo requisito è chiaro, o con titolo di studio inferiore al diploma di scuola media superiore professionale, e questo è chiaro, è un po' meno chiaro il terzo requisito, che vivano da soli con una o più persone a carico. Chi potrebbe essere questa figura qua, che non l'abbiamo capita neanche con l'avvocato Rotondi? Ma cercando appunto di metterci un po' di fantasia, perché come sappiamo molte volte il legislatore lascia poi dei buchi che poi vengono chiariti anche in modo un po' improprio con le circolari, quindi la circolare vediamo che ultimamente nel nostro ordinamento si erge poi a livello normativo, ma comunque siamo purtroppo abituati a questo meccanismo. Ma non so, io potrei immaginarmi magari la situazione del un ragazzo di 27 anni, magari del separato, sì, o del divorziato, che appunto magari ha comunque i figli a carico, o delle persone familiari magari disabili, o situazioni di quel genere lì. Ecco, io mi immagino, ma molto estreme, ecco. Mi immagino delle condizioni di queste fattispecie. Poi appunto sicuramente questo aspetto dovrà essere chiarito poi nella fase operativa, quando l'INPS fornirà le opportune istruzioni del funzionamento concreto. Precario il mondo, flessibile la terra che sta pestando. Con l'inizio di luglio e il giro di boa di questo 2013, non si può dire che le notizie in arrivo dall'Istat in materia di lavoro siano migliori di quelle dei 6 mesi precedenti. Il tasso di disoccupazione a maggio si attesta al 12,2%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile e di 1,8 punti nei 12 mesi, il massimo storico dal 1977. E se la disoccupazione giovanile, è vero, scende dell'1,3% su base mensile, rispetto a un anno fa è comunque in crescita e di quasi il 3%. Una magra consolazione, quindi. Una notizia buona, o perlomeno molto attesa, è arrivata invece per le neomamme che vogliono tornare a lavorare una volta concluso il periodo di assenza obbligatoria. Dalle 11 di ieri, 1 luglio, è possibile inoltrare all'INPS le richieste per ottenere quello che è stato definito il bonus bebè 2013. 300 euro al mese per un massimo di 6 mensilità, da utilizzare per iscrivere il bimbo al nido o pagare la babysitter. Ma attenzione! Per farne richiesta all'INPS c'è tempo solo fino al 10 luglio. Ai tanti italiani che sono alla ricerca di un posto tramite agenzie, invece, potrei interessare una recente precisazione del garante della privacy. Chi si occupa di selezione non può chiedere, in sede di colloquio conoscitivo, una copia del documento di identità. È consentito che le agenzie ne annotino gli estremi e che chiedano che venga mostrato, ma nessuno è tenuto a consegnare una fotocopia che contiene fotografia e dati personali. Un nostro piccolo radiogiornale interno a Salvadanaio per darvi le notizie inerenti al mondo del lavoro. Oggi però ci focalizziamo sul pacchetto Giovannini e quindi il decreto Letta, che come ricorderete settimana scorsa è intervenuto varando un pacchetto appunto di risorse per 1,5 miliardi di euro. Oggi ci focalizziamo su quegli incentivi che possono andare a beneficio delle aziende che vogliono assumere giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Abbiamo già dato indicazione di qualcuno di questi appunto parametri richiesti per poter fare questa assunzione. Adesso parleremo anche delle altre condizioni necessarie e che devono essere soddisfatte per avere appunto per ottenere questi incentivi, però ci metterei insieme anche qualche domanda di qualche ascoltatore all'800 24 00 24. Pronta Valentina da Milano, che saluto, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione che seguo sempre con di interesse. Grazie Valentina, ci dica. Dunque, io ho 24 anni, mi sono laureata nel dicembre scorso e attualmente sono stagista. Volevo chiedere agli esperti in studio se la decontribuzione vale anche per coloro che hanno svolto uno stage retribuito. Grazie Valentina, bella domanda. Alessandro Rotaporta, non vedo almeno questi profili all'interno della normativa, ma probabilmente mi può anche essere sfuggito qualcosa. No, direi di no. L'età dell'ascoltatrice che 24 anni. No, direi che rientra nelle condizioni previste. Bisogna solo stare attenti al rispetto di altre condizioni, perché comunque sia questo incentivo, questo sgravio appunto sulla contribuzione INPS spetta nel momento in cui questa assunzione di cui abbiamo parlato a tempo indeterminato sia incrementativa della media occupazionale dell'azienda dei 12 mesi precedenti, quindi deve andare a incrementare la media e deve trattarsi comunque di un'assunzione che rispetta le regole generali degli incentivi. Ecco, però mi scusi, a Valentina ha in questo momento un rapporto di lavoro e uno stage che credo sia retribuito, se non ho capito male. Non mi pare che risponda al requisito della mancanza del lavoro regolarmente attribuito da almeno 6 mesi, quindi non so se può essere stabilizzata da un'azienda. Bisogna andare a vedere. Infatti un altro punto che stavo cercando di approfondire, bisogna andare a vedere se il compenso che eventualmente ha percepito nei 6 mesi precedenti alla possibile eventuale assunzione è tale da farla rientrare nella casistica 1, quindi quella dei lavoratori, dei soggetti privi di impiego regolarmente retribuito, oppure no. Quindi bisogna vedere se sta nei limiti reddituali per aver mantenuto, che le hanno consentito di mantenere lo status di disoccupazione, oppure no. Poi non basta neanche quello, perché ad esempio non è il caso dell'ascoltatrice, però se ci sono dei lavoratori che eventualmente magari sono stati licenziati dall'azienda, magari per mancanza lavoro nei mesi precedenti, quindi hanno acquistato un diritto di precedenza, questi non sono agevolabili, quindi c'è è necessario il rispetto di una serie di condizioni. In caso dell'ascoltatrice va verificato se il compenso che ha percepito sia tale da poter farla rientrare oppure no. Invitiamo allora Valentina a scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e poi come sempre appunto gireremo il suo caso al dottor Rotaporta, che ci aiuta a chiarire un po' gli aspetti che non siamo riusciti a chiarire in diretta. Sentiamo adesso invece Enrico da Mestre. Enrico, buongiorno. Ah, buongiorno. Il tema che ha sollevato l'avvocato Rotondi vedo che sta scatenando molte prese di posizioni molto concrete da parte degli ascoltatori. Ci dica. Allora, intanto faccio la premessa, io vi ascolto circa 5-6 ore al giorno. Ecco qua, è proprio addicted, come si dice in inglese. Grazie. Mi sento un ritorno, vabbè, cerco di spiegarmi. No, non mi è piaciuto in relazione all'intervento che ha fatto al telefono il signore che parlava dei concorsi dove per lavori come le turbino viene vi partecipano anche i laureati, lui dice, no, ma dice perché no, i laureati no, ecco, capiamoci, che vi partecipano è normalissimo, se non c'è lavoro. Diceva giustamente il signore che non ha senso premiare chi ha un diploma o una laurea, visto che non serve assolutamente per quel tipo di lavoro. È stato detto in studio, non so da chi, ma non mi interessa, che non bisogna penalizzare i titoli di studio. Non è stato detto questo, il signore giustamente ha detto che non ha senso, anzi è sbagliato, e sono d'accordo, dare un punteggio e quindi premiare chi ha dei titoli di studio per dei lavori, per dei concorsi dove questi non servono, non sono richiesti. Cioè, se si stravolge l'informazione e la verità, è esattamente il motivo per cui l'Italia va male, si stravolge la verità. Ecco, quindi Enrico, non ho capito lei che cosa sostiene, a parte il fatto che stiamo affrontando un argomento che non è in linea con Salvadanaio di stamattina, beh, oddio, sì, a parte in linea lo è anche, ma non ho capito, quindi lei è d'accordo sul fatto che una laurea per chi partecipa ad un concorso debba valere nello stesso modo del laureato o meno, del diplomato o del diploma o meno? Sostengo che dove non serve, per quanto riguarda l'attività lavorativa a cui è rivolto il concorso, non ha senso valorizzare di più una laurea o un diploma rispetto a una licenza media. Se non serve la laurea per fare lo spazzino, non ci deve. Allora essere lei dice al concorso devono partecipare tutti nelle stesse condizioni, evidentemente il requisito formativo non deve essere neanche inserito. Vabbè, questi sono punti di vista, Enrico, adesso non dobbiamo neanche metterci a commentare come vengono fatti i concorsi pubblici in Italia, perché poi per non parlare del fatto di come vengono assunte tante persone, credo che diploma e laurea neanche vengono prese in considerazione. Avvocato Rotondi, vuole precisare ancora qualche cosa relativamente al commento di Enrico, oppure lasciamo perdere questo argomento? No, direi che sono assolutamente d'accordo, nel senso che devono essere liberi tutti di partecipare e la graduatoria deve essere fatta in ragione a quello che è il, diciamo così, lo scopo finale. Ecco, perfetto. Allora, andiamo a sentire adesso chi è Alberto da Vicenza. Alberto, buongiorno. Salve. No, volevo mettere in evidenza come questa riforma che è stata fatta non, cioè di fatto non aiuti quella che è la condizione reale dei giovani, perché di fatto un giovane attualmente spesso gli capita di lavorare qualche mese, poi fermarsi per qualche mese e ritornare a lavorare. Quindi nessuna, la condizione per esempio dei 6 mesi, che è quella più, diciamo, generica per i giovani, non, di fatto non può essere sfruttata. Alberto, guardi, anche qua non ho capito, non so se parlasse avvocato della rotta porta, non so se lei ha capito bene l'osservazione di Alberto, non so se ritornasse sugli intervalli di tempo che devono decorrere tra un contratto a termine ed un altro, ma credo che questo tema sia stato superato. Era la famosa questione dell'intervallo di tempo di 6 mesi che era stata fissata dalla legge Fornero. Il pacchetto Giovanili è tornato a risuperarlo ed è praticamente stato ripristinato il vecchio termine del pacchetto Treu, se non ricordo male. La rotta porta, sì. Sì, quello è stato, diciamo, è stato riportato il regime previgente rispetto alla riforma Fornero del lavoro del luglio dello scorso anno. No, secondo me l'ascoltatore probabilmente voleva riferirsi a un altro aspetto, cioè diceva se nel momento in cui uno magari ha lavori saltuari, quindi viene assunto e licenziato più volte e quindi è difficile rientrare con queste casistiche qui. Ah, i sei mesi. Esatto, il lavoro non regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ma come dicevo prima, con riferimento all'ascoltatrice che ho chiamato precedentemente, cioè quell'addizione, cioè, va valutata con attenzione, cioè non significa il disoccupato che negli ultimi 6 mesi non ha fatto nulla in modo stretto, cioè è un'addizione che è, diciamo che appunto il legislatore italiano non l'ha mai chiarito, e forse ecco questo qui è un altro aspetto per cui questi incentivi molte volte poi hanno delle caratteristiche un po' nebulose, però è un rimando al, diciamo, al riferimento del lavoratore svantaggiato fatto a livello europeo, quindi si rifà a un regolamento CE del 2008, per cui bisogna andare a verificare proprio con attenzione le singole situazioni specifiche, perché magari anche un lavoro saltuario non ha fatto scattare il, diciamo, il limite, l'impiego regolarmente retribuito, perché quel regolarmente significa se sta in determinati parametri, se non so, uno magari ha lavorato una settimana, tanto per fare un esempio limite, probabilmente rientra in quella casistica lì e può portare in dote a chi lo assume questo bonus. Ma per orientarsi in questo mare magnum di norme, avvocato Rotondi, voi che assistete le aziende, che cosa fate? State dalla mattina sera in pianta stabile con l'ufficio del personale, immagino, delle aziende, no? più che stare nei vostri studi? Direi che è proprio così, in realtà ormai gli studi che svolgono questo tipo di specializzazione si sono dotati di un centro studi il cui compito è quello di monitorare giorno per giorno questi provvedimenti e fornire delle schede alle aziende che possono aiutarle a districarsi. Vi ricordo anche, lo ricordo ai nostri ascoltatori, che da giorni il Sole 24 Ore affronta in tutti i dettagli questo provvedimento, e anche oggi troviamo una nuova guida al lavoro che è curata in larga parte dall'avvocato Giampiero Falasca, che è spesso ospita appunto della nostra trasmissione, che salutiamo, che ci sta twittando molto, molto intensamente questa mattina, e quindi ci fermiamo adesso. Suggerimenti perché in viaggio, poi ritorniamo insieme. Piacere, Luigi della Bicocca, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Oltre al bonus per gli under 30, dal decreto legge varato dal governo la scorsa settimana, arriva anche una seconda categoria di incentivi, che vuole facilitare il reimpiego dei disoccupati. Il bonus vuole incentivare l'assunzione di lavoratori che usufruiscono dell'assicurazione sociale per l'impiego, l'ASPI, l'ammortizzatore che da gennaio 2013 ha preso il posto dell'indennità di disoccupazione. Il datore di lavoro, che senza essere obbligato a farlo, assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore che fruisce dell'ASPI, ottiene, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata versata al lavoratore. ed è confermato anche l'annunciato passo indietro, in questo caso a costo zero, rispetto alle regole della riforma Fornero e relativo ai contratti a tempo determinato. Nella speranza di favorire la flessibilità in entrata, vengono infatti ripristinate le vecchie pause tra un contratto a termine scaduto e quello successivo. 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi, 20 per quelli più lunghi. Con l'ultima riforma, gli intervalli erano stati portati a 60 e 90 giorni. Avvocato Rotondi, peraltro anche questi bonus non immediatamente erogabili, perché anche in questo caso aspettiamo istruzioni operative da parte dell'INPS, in questo caso specifico? Sì, corretto. Ma una riflessione su queste due, diciamo così, norme. Allora, la prima, ben venga che evidentemente la possibilità del reingresso nel mercato del lavoro di chi è stato allontanato per crisi e questioni occupazionali sia aiutato ancora una volta attraverso questa incentivazione. Ancora una volta fa parte però di quella di quel pacchetto che pensa di creare domanda attraverso l'erogazione di un bonus, ed è un concetto che a livello imprenditoriale non ha nessun valore e che quindi in realtà io credo che la focalizzazione di un percorso di questo tipo dovesse essere perlomeno affiancata a un sistema di incentivazione delle imprese che non è un sistema di incentivazione decontributivo, ma semmai per implementare nuove attività industriali, nuovi prodotti, start-up e quant'altro. Quello chiederebbe, creerebbe la domanda alla quale affiancare poi una possibile eventuale offerta di lavoro. Per quanto riguarda invece il contratto a termine, io mi trovo ancora una volta disorientato, nel senso che da una parte abbiamo una serie di articoli che depongono a favore della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel prologo e nelle ragioni di questa riforma si parla proprio di quello che è la lotta alla precarietà, termine abusato sul quale non sono completamente d'accordo. Dall'altra parte, in realtà si va a limare il famoso stop and go fra un contratto a termine ed un altro, ovviamente relativo alla stessa impresa con lo stesso lavoratore, che non ha un senso sotto questo profilo, perché significa che evidentemente era stato mal vissuto questo iato temporale fra un contratto a termine ed un altro, ma che evidentemente disturba solamente quell'impresa che in realtà quel contratto a termine lo vive come... Certo. Non è certo il concetto di flessibilità che ha in testa l'impresa. No, ma poi all'interno di questo pacchetto volto con quelle finalità, ancora una volta io non riesco a comprenderlo. Qua è necessario un lavoro di ristrutturazione generale che potrebbe richiedere anni. Intanto però è necessario tamponare un'emergenza che diventa sempre più dirompente, che è quella della disoccupazione sempre più alta nel nostro paese, quindi intanto tamponiamo, e con i provvedimenti a meno i due di quali stiamo parlando questa mattina tamponiamo per 12-18 mesi. 12-18 mesi, non di più, poi vedremo. Andiamo ad un altro paio di ascoltatori. Riprenderei da... c'era un imprenditore che voleva intervenire, quindi ci interessa molto questo punto di vista, e Andrea da Alessandria. Andrea? Pronto, sì, sono qua. Ci sente, buongiorno. Io sono un imprenditore di 64 anni che ha fatto della crescita delle aziende in Italia il suo obiettivo principale. La ringrazio tanto per avermi richiamato. Grazie a lei. E che ha sempre privilegiato i giovani, tanto che l'ultima azienda che poi ho venduto agli altri soci che dovevano spostare delle produzioni all'estero, aveva un'età media di lavoratori di 36 anni, compresi dirigenti e tutti. La realtà è che l'unico modo che aveva l'azienda per crescere, non avendo le visibilità sufficienti per poter crescere arrivata a 900 persone, era delle entrate flessibili, perché la realtà è che se il governo non si rende conto che il mondo va sul flessibile, perché non esiste la certezza del lavoro, perché anche il lavoro indeterminato, se l'azienda va in crisi, diventa... determinato, perché l'azienda poi licenzia in ogni caso. Quindi lei dice, insomma, è inutile il pacchetto di incentivo che mira a stabilizzare i contratti addirittura? Ma certo, perché nella realtà la stabilizzazione è come avere decreti di lavoro. Io faccio il lavoro per decreto. Il lavoro nasce dalle opportunità effettive che si creano nel mondo del lavoro. Se no il lavoro dall'Italia si sposta Romania, Serbia, come si vede, perché dove c'è flessibilità. La stessa Francia, la stessa Spagna, che aveva dei sistemi rigidissimi di controllo dell'uscita dal lavoro, ha accettato flessibilizzazioni onerose. Certo, ma nella realtà le persone sono licenziate per esigenze della vita. Andrea, il suo ragionamento è condivisibile, se solo nel nostro paese ci fosse però la possibilità per quei ragazzi che magari adottano questa flessibilità in tutta tranquillità di potersi ricollocare immediatamente nel mondo del lavoro nel momento in cui rimangono a casa, se funzionassero bene i centri per l'impiego e non lo so, avvocato Rotondi. No, allora il discorso dell'ascoltatore è comprensibilissimo e peraltro è quello che diciamo da tempo. La certezza del lavoro non dipende dalla norma, ma dipende dalla possibilità che un'impresa ha di far lavorare i propri dipendenti. Tolto questo, viene giù tutto. Il tema però è un po' più complicato, perché noi abbiamo un sistema sociale che, ahimè, si fonda sulla certezza del rapporto di lavoro per accedere a tantissime altre cose. Faccio un esempio che tutti sanno, che è il credito. Ultimamente una mia collaboratrice doveva acquistare una casa e hanno avuto dei grossi problemi, proprio perché da una parte lei poteva avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quindi su quello creare poi un mutuo, mentre il fidanzato aveva un contratto che non era ritenuto tale dall'istituto di credito, e quindi i problemi sono questi. Esatto, cioè, di che cosa stiamo parlando? Di flessibilità da parte di cervello, diciamo, di atteggiamento del sistema complicato. Bancario e tutti, certo. Non è solo questo. Infatti, il tema. Purtroppo il nostro programma è giunto al termine, ma abbiamo talmente tanti spunti da questo pacchetto, appunto, Letta/Giovannini, che torneremo ancora a lungo su questi argomenti e quindi ci ritorneremo anche martedì prossimo. Grazie avvocato Rotondi per essere stato con noi. So che le piace molto il tema delle start-up e su questo la riconvolgeremo naturalmente nelle prossime trasmissioni. Rotta Porta, buona giornata. Grazie molte. C'era anche un altro ascoltatore, un imprenditore che voleva intervenire, Maurizio da Milano, che voleva sollevare invece l'altro tema drammatico. Qua è inutile che cerchiamo gli incentivi per il lavoro se non c'è nessuno che consuma e le aziende non possono produrre perché non c'è domanda. Grazie a tutti, a domani.